sono più, sono polvere, sono dolore, non ho più figli, non ho più amore, sono polvere la storia. Portarmi dove non lo so, su questo treno vecchio come, come il silenzio, come il dolore, e ascolto le grida di un odio lontano, di una condanna che non so capire, stringendo forte tra le mani la speranza di non morire, ma è così semplice, fa troppa paura questo bisogno di respirare, perché tutto possa finire, finire per non tornare. Come parli, ma io non ti sento più, e tu mi guardi, ma io non ti vedo più, non ho più figlio in questo dolore, non ho più una donna che mi possa aspettare, non ho più una terra su cui crescere e andare, sono solo un numero da poter bruciare, mi strapperanno la vita di dosso, si perderà nel cielo con i miei destino, con i miei sogni, con ogni ricordo, con il mio viso, con il tuo sorriso, ma che muoia la carne tra la rabbia e il silenzio, non è importante, non fa poi così male, che bruci i numeri incisi col fuoco, faranno del fuoco la mia via per scappare, ma quello che è stato, che ho visto, che ho perso, non posso lasciarlo. E questa è la memoria dei Senza Sicura, che come di consueto funge da sigla a Maldestra, che ritorna oggi dopo la pausa di martedì scorso, pausa appena ricominciata la stagione, tra l'altro la settima o addirittura la ottava, se non sbaglio, anche un po' perso il conto, stagione di questo osservatorio, in cui adesso arriverà anche il mio socio e cercheremo di sentire anche nel corso di questa puntata anche un po' tutti gli altri redattori, se non quelli che appunto verranno in studio, li raggiungeremo per via telefonica. Ma io vivo, non sono più, sono polvere. La scaletta di oggi, infatti, in qualche modo è anche abbastanza scontata per chi ha dato un'occhiata nel corso della settimana a quelle che sono le cronache internazionali di questi giorni. Andremo a guardare appunto in Svezia per l'ultima tornata elettorale svedese, che in qualche modo ha visto l'affermazione del centrodestra e come un po' in tutta Europa degli ultranazionalisti, dei cosiddetti democratici svedesi, e poi ci sposteremo invece oltreoceano negli Stati Uniti con le elezioni a medio termine alle porte. La pandémie capitaliste. Hey, hey, nous, nous, nous. E allora, come annunciato proprio in apertura, andiamo subito con il primo collegamento. Siamo in collegamento telefonico con il nostro redattore dal Nord-Est, con cui poi spaziamo spesso in Europa. E intanto verifichiamo se ci senti. Ci senti bene? Sì, buongiorno a tutte e tutti. Buongiorno anche a te. Quindi, come dicevo anche prima, tu probabilmente non hai sentito, già stavo presentando che con te parleremo di questa tornata elettorale svedese per capire un po' che cosa significa questo risultato, il risultato di questo partito dal buffo nome, almeno per quanto riguarda un po' quello a cui siamo abituati noi, dei cosiddetti democratici svedesi, poi nel quadro anche più ampio dell'Unione Europea. Io però prima di tutto ti chiederei di raccontare un po' chi sono questi democratici svedesi e insomma di che cosa stiamo parlando prima di tutto. Allora, stiamo parlando di una, tocca dire, ex piccola formazione xenofoba svedese che nasce, diciamo, alla fine degli anni 80, nel 1988, e che si è sempre caratterizzata come un partito fortemente razzista e fortemente antisemita, che quindi attraversa tutti gli anni 90, diciamo, dando anche rifugio a tutto quello che è un po' il movimento Bonetz svedese, e che poi a metà anni 2000 ha un vero e proprio restyling che lo porta a modificare radicalmente i suoi assetti interni e il suo modo anche di proporsi, e che comincia quindi battendo molto sulla questione dell'invasione islamica, della riforma del welfare state soltanto per gli svedesi, e per, diciamo, su accenti anti-immigrazione e apertamente xenofobi, ma provando un po' a togliersi l'etichetta di partito dei neonazisti, di partito dei Bonetz, comincia a ottenere qualche significativo successo, scegliendo anche questo leader molto giovane, questo Jimmy Åkesson, arrivando ad avere qualche successo, diciamo, amministrativo in piccole amministrazioni locali, specialmente nella zona sud della Svezia, che è comunque la più popolosa, la più importante, dove ci sono anche le città più importanti, e questa volta fa un netto salto di qualità perché arriva a superare lo sbarramento per la prima volta, diciamo, dal 1988 ad entrare in Parlamento, con anche un discreto numero di deputati, attestandosi sul 5,7%, diciamo, dei consensi, trovandosi anche in un momento un po' complesso perché si trova ad avere una ventina di seggi, mentre invece le due coalizioni di centrosinistra e di centrodestra non riescono ad avere la maggioranza. Quindi c'è da una parte il tracollo, diciamo, della socialdemocrazia svedese, che perde ulteriormente terreno dopo che governava questo paese da circa 80 anni, è un centrodestra che aveva già fatto un breve mandato, che però non riesce ad avere i voti definitivamente per governare, quindi insomma vengono un po' ulteriormente a essere al centro della vita politica svedese proprio per questo gruppettino di deputati che potrebbe essere determinante nella formazione di un nuovo governo, anche esatto, tutti abbiano escluso, ma già in campagna elettorale, che non avrebbero mai fatto accordi con SD, cioè con i democratici svedesi, proprio per il loro essere sempre stati impresentabili. Va detto però che questa campagna di restyling, dicevo, che è stata proprio simbolicamente rappresentata da questo leader Jimmy Åkesson, che è un trentenne rampante, molto molto rassicurante, che si presenta in giacca e cravatta, un aspetto anche molto molto molto tranquillo, che assomiglia un po' ad altri leader neopopulisti del mondo scandinavo, sempre di queste recenti tornate elettorali, è stato abbastanza determinante in questo successo, nel senso che si è per la prima volta sviluppato una sorta di censura parziale della propaganda di questo partito, che molti commentatori hanno anche inquadrato come una delle cause del successo. Mi spiego meglio. Questo è un partito che aveva anche pochissimi soldi per fare la campagna elettorale, aveva quindi provato, a come sempre, come faceva da tanti anni, a mandare qualche spot televisivo, ma questa volta le reti nazionali, anziché rifiutarglieli come al solito, li hanno trasmessi edulcorati, dicendo apertamente: questa è una versione censurata dei due spot che erano fortemente razzisti, e poi sono anche interessanti da vedere che immagini davano un po' della società svedese. Queste versioni sono delle versioni censurate, se volete vedere la versione integrale andate sul sito del partito di democratici svedesi. Questo è stato un autentico boomerang per certi versi, perché ha portato una notorietà enorme anche sotto questo, diciamo, aspetto della censura, mentre invece anni prima semplicemente apertamente le reti televisive e i giornali si rifiutavano di dare spazio a questo partito che era diventato molto celebre con la frase "diamo la Svezia agli svedesi", che era stato quindi immediatamente tacciato, diciamo, al di fuori del consesso pubblico e del consesso politico. Quindi, tra virgolette, c'è stato anche un insieme di concause che hanno permesso che questo voto di protesta, che poi si è andato a fortemente a caratterizzare su questa piccola formazione, perché diciamo, che non era neanche la più importante, diciamo, dell'alveo dell'estrema destra svedese di questi ultimi 20 anni, è diventata quindi un qualcosa che si inserisce molto all'interno del dibattito tutto di quelle aree e di quei movimenti, diciamo, delle tensioni sociali di quei paesi relativamente alla riforma del welfare. Insomma, la Svezia è da sempre uno dei capostipiti anche teorici appunto del cosiddetto welfare svedese. La revisione di questo welfare e le riforme che anche in periodi di crisi sono dovute essere attuate dalla socialdemocrazia e dopo dal centrodestra in Svezia hanno determinato anche un clima di preoccupazione su cui poi la leva dell'immigrazione, in particolare poi caratterizzata come islamica, ha avuto insomma un certo successo, e questo voto un po' si inquadra in questa maniera, perché Akesson, che è questo leader dei democristi svedesi, insomma, ha ragione nel dire che un po' purtroppo i temi della campagna elettorale svedese sono molto incentrati sui loro temi, ed è anche una delle ragioni per cui l'elettorato poi li ha premiati. Ma io ti volevo chiedere anche una cosa rispetto anche a quello di cui abbiamo più volte parlato con te, tutte le volte che affrontiamo in qualche modo il successo di un partito di destra radicale in Europa. Ogni volta commentando le varie formazioni più o meno xenofobe emerse negli ultimi anni, la caratteristica che, se vuoi, a me viene un po' più in mente, se penso appunto a questi partiti, è la loro assoluta disomogeneità tra i vari paesi, nel senso che finora abbiamo, che ne so, come in Nord Europa, spesso partiti in cui l'islamofobia viene agitata dietro il paravento in qualche modo della difesa, che ne so, dei diritti delle donne, con delle figure anche che sono molto lontane dallo stereotipo del fascista come conosciamo nella nostra tradizione, no? Penso magari a Pim Fortuyn e a quelle formazioni come in parte anche il Vlaams Belang, che somiglia in qualche modo a una Lega Nord in salsa fiamminga, contro le tasse, contro il centralismo, eccetera. E poi ci sono tutte quelle altre formazioni invece del blocco dell'est, quelle che vanno, diciamo, da Jobbik agli integralisti cattolici ortodossi polacchi o rumeni, che in qualche modo invece ci ricordano più da vicino quella che è l'esperienza nostra con i neonazisti o i neofascisti come li conosciamo. Insomma, questi democratici svedesi qui in quale famiglia si vanno a iscrivere rispetto, ecco, a questa cosa? Questa è una domanda interessante, nel senso che se ormai sviluppato, e in questo senso il paragone con la Lega Nord è determinante, se ormai sviluppato una serie di partiti che oscillano fra il neonazismo e il populismo, che si caratterizzano con un modo di comunicare, un aspetto molto meno marcatamente legato anche alla simbologia, agli slogan di quello che era invece la loro appartenenza neofascista, e che in determinate aree d'Europa, io penso soprattutto alla Scandinavia, perché ci sono esempi simili in Danimarca, in Norvegia e anche in qualche misura in Olanda, quelle sono delle aree in cui, e non è un caso che sono tutti paesi che oggi come oggi affrontano la crisi da dei livelli di stato sociale che erano tra virgolette ben diversi da quelli invece dell'Europa mediterranea, per non parlare poi di quello che insomma è il decadimento sociale anche dell'Europa dell'Est. Quindi diciamo tutto questo movimento che tutti questi partiti effettivamente sono differenti tra di loro, e hanno anche, tu ricordavi la figura di Pim Fortuyn, che in Olanda è stato veramente particolare, perché avevamo insomma un leader anche la cui biografia era veramente discordante da quella dei leader dell'estrema destra. Però diciamo hanno 4-5 punti in comune che gli consentono di anche creare delle sinergie a livello europeo. Per esempio, prima di tutto, questa questione della immigrazione è caratterizzata come islamica. Che poi la cosa che poi insomma, potrebbe anche far riflettere è che per esempio la Scandinavia ha un'immigrazione dall'est quasi più forte di quella di origine araba o di quella di diciamo islamica, per cui diciamo lo spettro dell'invasione islamica è qualcosa che è utilizzato in maniera molto propagandistica e che è appunto equivalente nel nord Europa in altri partiti di questo tipo. Questo produce anche una forte avversione a quella che è l'Unione Europea, però non nel senso classico come era stato spesso da parte dei partiti di estrema destra di uscire dall'Unione Europea, ma nel senso di rinegoziare quello che è il ruolo dei singoli paesi dell'Unione Europea. europea. Questi sono tutti partiti che si trovano insieme sull'euroscetticismo, cioè su un tentare di ridefinire quello che è lo spazio degli stati nazionali all'interno del consesso europeo. E poi, come la Lega, insomma, hanno accenti fortemente di sostegno alla famiglia tradizionale, quindi contraria alle unioni gay, quindi da questo punto di vista hanno questi 3-4 punti in comune che ne fanno un po' una nuova famiglia politica neopopulista, che ottiene dei risultati e che in qualche maniera si è scrollata di dosso, poi bisognerebbe proprio vedere se è vero tutto questo, perché poi per esempio sul Partito dei Democratici si è scrollato di dosso, diciamo, l'etichetta di neonazisti, e che in qualche misura hanno ormai accesso anche ai mezzi di informazione e in paesi in cui tutto questo era impensabile fino a qualche anno fa. Quindi tutta questa diciamo nuova generazione risulta essere particolarmente pericolosa, anche perché non è il caso svedese, però insomma in altri paesi a livello amministrativo e a livello diciamo parlamentare cominciano ad avere uno stabile ruolo, e che inevitabilmente li porterà anche in momenti in cui c'è un quadro politico non così determinato a essere determinanti. Sì, tra l'altro volevo aggiungere rispetto a quanto avevi detto che anche dove magari non sono così determinanti o comunque non partecipano ai governi vari, probabilmente uno dei pericoli che poi rappresentano maggiormente è quanto poi riescano a dettare temi e linguaggi anche nelle formazioni più grosse, che magari tenendo un'emorragia di voti si mettono a inseguire su questi temi. Penso ad esempio alla vittoria di Sarkozy in Francia, che ha veramente attinto a piene mani dalla retorica del Front National in qualche modo, o anche alla stessa Lega in Italia, che di fatto ha nel giro di pochi anni sul tema dell'immigrazione ha schiacciato tutto il centrodestra sulle sue posizioni, poi, no? Certo, quindi diciamo abbiamo un'Europa in questo senso che per quanto riguarda l'estrema destra ha almeno tre velocità in questo senso. Quando tu giustamente prima ricordavi una schematizzazione che ci sta, nel senso che abbiamo quindi recrudescenza in alcuni paesi come la Germania o insomma l'Est, recrudescenze sempre più neonaziste, abbiamo invece un'Europa mediterranea in cui c'è una continua questa sinergia fra partiti di governo e l'estremismo più basso di destra, e invece un'Europa scandinava e nord europea in cui trionfa questo populismo, neopopulismo xenofobo sullo stile leghista, che oltretutto con questi partiti stabilisce anche dei rapporti in seno al Parlamento europeo, sempre su questo nodo dell'euroscetticismo e di voler insomma rinegoziare il ruolo dell'Europa anche dal punto di vista, con accenti fiscali, con accenti anche legati alle legislazioni per esempio sull'esportazione o sulle produzioni locali. Quindi insomma da questo punto di vista il quadro è variegato e comincia a stabilirsi questo nuovo trend. Senti, io invece avevo un'ultima domanda, però te la chiedo così, non so neanche se hai gli elementi per rispondere. Vedendo un po' le agenzie, soprattutto proprio all'indomani del voto, si raccontava come in realtà questo portavoce, non so come chiamarlo perché poi non è neanche il segretario del partito, esatto, questo Jimmy Åkesson, in realtà poi è in qualche modo un prestanome, mentre dietro si evocava una specie di quadrumvirato, adesso non mi ricordo i nomi nello specifico di chi era, ma comunque diciamo dei dirigenti di partito provenienti in qualche modo dalla vecchia guardia. Siccome noi abbiamo sentito poi un sacco di storie su non so neanche quanto realistiche o quanto poi fantasiose raccontate dai giornalisti sul nazismo svedese, penso addirittura anche quella che fece un po' il giro del mondo, il furto della targa di Auschwitz, quella il lavoro rende liberi, che in qualche modo sarebbe stata anche poi commissionata dai nazisti svedesi eccetera eccetera, quello che volevo sapere era quanto questo partito è effettivamente qualcosa di nuovo, si iscrive in queste famiglie nuove anche proprio come composizione, o quanto invece è soltanto una facciata e nasconde poi invece un corpo o di dirigenti o di militanti comunque legato al neonazismo vero e proprio. Ma allora diciamo che questa questione del quadrumvirato infatti è stata più volte ripresa dai giornali, soprattutto sulla figura di Sorge, questo che è il segretario, il segretario del partito, mentre invece questo Jimmy Akerson è una specie di frontman, cioè non ha nessun ruolo, ma è una sorta di portavoce ed è l'unico volto pubblico che si vede. Va detto che questo partito comunque non è stato il partito principale dell'estremismo, diciamo, neonazista in Svezia, che invece aveva, diciamo, degli altri referenti, delle altre piccole formazioni, e c'è stato anche quindi continuo travaso di militanti con altre formazioni. Lo stesso Akerson ha dichiarato in una intervista: qua io sono un attivista di questo partito da quando ho 15 anni e per fortuna non ci sono più i dirigenti di una volta. Io quando sono entrato in questo partito avevo ancora della gente che era vestita con uniformi naziste nelle assemblee, nelle riunioni, nelle assemblee del partito. Quindi lui ha sempre voluto dare questo tipo di impostazione. Va detto che ci sono state anche delle espulsioni in questo senso, tanto è vero che, tra virgolette, questa censura che c'era nei media per questa formazione, le accuse di antisemitismo sono state, tra virgolette, si sono perse un po' negli anni, addirittura hanno fatto delle cose molto propagandistiche. Akerson è dal 2005 che è il portavoce, hanno accettato la dichiarazione dei diritti dell'uomo, si sono dichiarati antirazzisti, insomma hanno provato anche a darsi una facciata. Sicuramente il neofascismo svedese non si rivolge tanto oggi come oggi a questo tipo di formazione. Ci sono però alcuni dirigenti che sono rimasti al suo interno, che hanno effettivamente un passato anche molto stradaiolo, anche preoccupante, però questo viene onestamente taciuto oggi come oggi, e ci sono degli altri gruppi che magari sono un po' più sullo stile dell'NPD, un po' della, tra virgolette, anche della nostra Forza Nuova, che sono un po' più preoccupanti in questo senso. Va bene, senti, io ti ringrazio, sei stato molto esauriente. Io non so se hai anche qualcos'altro da aggiungere o ci risentiamo tranquillamente la settimana prossima. Un saluto. Un saluto anche a te. Ciao. Dai, grazie. Ciao. Sulle note degli Angelica Upstarts ritorniamo in studio, ritorniamo, come abbiamo detto, voltando pagina, parlando sempre di esteri, ma stavolta un po' da oltreoceano, visto che andiamo a parlare di America con una delle voci più antiche di questa trasmissione. Ci senti intanto? Buongiorno, dall'antichità in diretta. Guarda, in realtà io mi riferivo al fatto che sei uno di quelli che da più tempo accompagna questa trasmissione, non alla tua, ai tuoi dati anagrafici comunque. E in ogni caso comunque con te andiamo a parlare, come abbiamo annunciato anche in apertura, di Tea Party, dal momento che siamo alle porte della tornata elettorale di medio termine, se non sbaglio, del Senato degli Stati Uniti, e appunto proprio in giorni di primarie, giorni in cui abbiamo visto in qualche modo i candidati del Tea Party sfidare i repubblicani e in molti casi battere anche i repubblicani più moderati. Quindi io chiederei direttamente a te di raccontarci intanto chi sono questi gruppi di cui parliamo, qual è la loro anche composizione, quanto c'è di quell'America razzista che in qualche modo non ha ingoiato l'elezione di un presidente afroamericano, e poi come si sono in qualche modo evoluti anche per arrivare fino al punto, ai risultati che vediamo di questi giorni, di mettere anche un po' in crisi il Grand Old Party, e poi eventualmente anche qual è la posta in gioco poi di queste elezioni, no? Soprattutto in seno alla destra americana. Sì, come dicevi tu, gli Stati Uniti si preparano alle elezioni di midterm che cadranno all'inizio di novembre e che tradizionalmente determinano a metà del mandato di un presidente, quindi al compimento dei primi due anni, diciamo, di un mandato che è quadriennale, determinano un po' gli umori del paese, vale a dire sono delle elezioni in cui spesso conta, diciamo, il bilancio fatto dagli elettori dell'operato del presidente, quindi è chiaramente un traguardo molto importante per la prima amministrazione guidata da un afroamericano, e più in generale è un traguardo importante per, diciamo, il Partito Democratico negli Stati Uniti, perché si viene da una lunghissima stagione di dominio conservatore repubblicano, quello che è stato incarnato da George W. Bush per tutto il decennio sostanzialmente del 2000 quasi. E che cosa sta accadendo nella destra americana? Sta accadendo che da circa un anno e mezzo, un movimento che si è denominato Tea Party, facendo, evocando la rivolta del tè che segnò nel porto di Boston una delle prime scintille da cui sarebbe scaturita la rivoluzione americana, sostanzialmente, diciamo, i coloni, i commercianti della Nuova Inghilterra, di quello che sarebbero diventato gli Stati Uniti, si ribellarono alla tassazione imposta dalla corona britannica sul tè, che era una delle principali, diciamo, risorse dell'esportazione. E in qualche modo il Tea Party oggi evoca quella rivolta perché mette tra i propri slogan, tra i propri obiettivi, quello di una riduzione della tassazione, o meglio un non aumento della tassazione soprattutto per i redditi più alti, e un attacco diretto a tutte le iniziative assunte in questi due anni da parte dell'amministrazione Obama, che vedono dal loro punto di vista un ritorno di presenza dello Stato nella vita pubblica americana, quindi la riforma sanitaria, quindi norme fiscali di altra natura, l'intervento in economia a sostegno delle imprese che stavano per chiudere, e via via. Cioè, quindi sostanzialmente il Tea Party, diciamo, si situa su questa corrente, in questa corrente bizzarra osservata dall'Europa, che mette insieme posizioni ultraliberiste ma con un accento quasi libertario, cioè mettendo in evidenza gli elementi dell'individualismo americano, un po' l'uomo della frontiera che ce la deve fare senza alcun aiuto, e una critica radicale allo Stato sociale, alle sue spese, immaginate tutte come una sorta di annuncio di socialismo. Non a caso il Tea Party evoca nelle proprie manifestazioni il volto di Obama trasformato nel Joker di Batman, quindi del nemico cattivo, crudele di Batman, con la scritta sotto socialism, come a dire, insomma, Obama ci sta portando verso un modello da Unione Sovietica con lo Stato onnipresente nella vita del cittadino. Che cosa è accaduto? È accaduto che in un anno e mezzo di mobilitazione il Tea Party non ha solo riempito le piazze, manifestazioni di alcune centinaia di migliaia di persone si sono svolte a più riprese, soprattutto a Washington, incrociando anche altre battaglie come quella per il libero porto di armi. La Corte Suprema americana ha recentemente ribaltato alcune sentenze riproponendo la piena liceità dell'uso di armi da fuoco da parte dei cittadini americani e sostanzialmente liberalizzando in larga misura anche ulteriormente il tipo di armi che sono a disposizione dei cittadini. Ci sono stati in cui sostanzialmente si può comprare un fucile d'assalto anche senza utilizzare alcun tipo di documento, cioè una condizione di estrema liberalizzazione del controllo delle armi, e la Corte Suprema rispondeva a cittadini che in alcune città degli Stati Uniti con forte tasso di criminalità avevano chiesto che fossero abrogate quelle norme che invece vietavano l'uso di armi. Faccio un esempio: una città come Chicago ha avuto delle leggi restrittive sulla libera circolazione delle armi da più di 30 anni, che hanno prodotto un notevole abbassamento dei tassi di mortalità, se così si può dire, nel senso che, insomma, visto che ci sono molte vittime di armi da fuoco, erano state prese delle norme municipali. La Corte Suprema ha stralciato tutto questo e ha ulteriormente liberalizzato la circolazione delle armi. A favore di questa sentenza, poco prima che venisse pronunciata, a Washington l'estrema destra insieme al Tea Party appunto ha marciato per chiedere la possibilità di girare liberamente con qualunque arma da fuoco, quindi incrociando anche altri movimenti, facendo come dire la Corte ad esempio alla campagna anti-immigrazione che ha portato lo Stato dell'Arizona, recentemente governato dai repubblicani, a varare una legge in parte anche questa poi rivista dai giudici contro gli immigrati cosiddetti clandestini. Insomma, il Tea Party è diventato un po' il cuore della nuova destra americana, del movimento conservatore che è uscito dai think tank, dai centri di elaborazione, dalle riviste, eccetera. Si è riversato inizialmente sulla rete, blog, siti e quant'altro, prendendo a modello quella che era stata la campagna di 2 anni fa di Obama, che si era svolta moltissimo sulla rete, e poi ha cominciato a riempire le piazze. E da questa mobilitazione, così dire, popolare ma conservatrice di base, che evoca alcuni elementi anche della vicenda di Bush, cioè parla ancora, diciamo, dell'elemento della religione, difende gli impegni militari oltreoceano degli Stati Uniti, in particolare quelli nel Medio Oriente, eccetera, eccetera, questo movimento ha cominciato poi progressivamente a pesare anche sull'establishment del Partito Repubblicano, rimasto dopo l'uscita di scena di Bush un po' orfano, diciamo, di una leadership, senza un leader chiaro, calcolando anche che le elezioni che hanno visto la vittoria di Obama avevano messo in evidenza la debolezza della leadership, con un ticket che metteva insieme John McCain, un, diciamo, conservatore moderato dell'Arizona, con invece Sarah Palin, l'ex governatrice dell'Alaska, che è una delle figure diventata poi oggi di punta di questo Tea Party. Bene, il Tea Party dalle piazze è arrivato alle urne, è riuscito sostanzialmente a imporre i propri candidati nelle primarie repubblicane in vista delle elezioni di mezzo termine, e ha praticamente battuto in gran parte degli Stati Uniti, non solo negli stati conservatori ma anche nella Nuova Inghilterra, cioè negli stati del nord del paese, tradizionalmente un po' più moderati, dove pesa molto il voto degli indipendenti, cioè coloro che non sono iscritti nelle liste elettorali né per i repubblicani né per i democratici, che è la, diciamo, la formula con cui si partecipa al voto negli Stati Uniti, e ha lanciato un'OPA, se così si può dire, sulle elezioni di medio termine, con ovviamente una preoccupazione di fondo che questi movimenti, che questa politica ultraconservatrice sta radicalizzando l'insieme della proposta politica dei repubblicani, e quindi la sta rendendo molto più permeabile a elementi di radicalismo, di estremismo. C'è come sottofondo di tutte queste campagne l'elemento razziale mai affermato, ma che sta lì come un fantasma, cioè il fatto che questa gente considera un problema il fatto che vi sia un presidente afroamericano. C'è addirittura un movimento all'interno, diciamo, di questa galassia delle nuove destre cresciute negli ultimi 2 anni che contesta l'origine di Obama. Dice che Obama non è uno statunitense, è nato in Kenya, dal Kenya veniva in realtà suo padre, mentre sua madre era appunto americana, e Obama è un islamico, il suo secondo nome è Hussein, elementi che farebbero il fatto di essere nato all'estero, lo farebbero ineleggibile negli Stati Uniti, e quindi sostanzialmente dicono Obama occupa in modo abusivo la Casa Bianca. Quindi, diciamo, questo radicalismo di fondo rende una proposta molto molto estrema, questa è una proposta molto estrema da parte della destra. C'è ovviamente un problema dal punto di vista degli strateghi repubblicani, il fatto che questo potrebbe però impensierire o impaurire una parte dell'elettorato moderato e conservatore che, diciamo, era già stato un po', si era già un po' preoccupato dell'escalation rappresentata da Bush e che di fronte a questo nuovo estremismo potrebbe scegliere di non partecipare al voto e quindi regalando in questo modo come reazione, diciamo come risultato, la vittoria ai democratici. Questo è un po' infatti questa era... che sta attraversando il paese. Io anche un po' in chiusura, visto che il tempo stringe anche un po', era un po' questa la domanda che ti volevo fare, dal momento che ovviamente in Italia non arrivano poi neanche gli echi delle schermaglie, diciamo, legate alle primarie interne ai repubblicani, cioè come l'establishment repubblicano poi effettivamente reagisce a questi gruppi, se in qualche modo li considera una risorsa o se, come stavi dicendo qua in fondo, sono in qualche modo anche una minaccia in vista di una tornata elettorale vera e propria. Certo, molto, molto rapidamente, ma diciamo che da un lato il problema di molti leader repubblicani che hanno visto nei loro stati erodere la loro base di consenso a favore dei candidati del Tea Party, cioè il Tea Party ha sponsorizzato nelle primarie dei repubblicani dei candidati che non erano quelli dell'establishment e ha spinto molti candidati invece legati al cuore del partito, alla struttura del partito, a radicalizzare le loro posizioni proprio per sfidare questi nuovi venuti. L'esempio più evidente è venuto proprio dall'Arizona, John McCain, che si era presentato con 2 anni fa con una proposta presidenziale molto moderata, che era stato il fautore di una riforma dell'immigrazione bipartisan fatta insieme a Robert Kennedy, cioè del tentativo, diciamo, della destra di uscire dalla stagione di Bush. Ha rivisto le proprie posizioni, ha fatto una campagna anti-immigrati proprio nel suo stato, che è uno stato di frontiera dell'Arizona col Messico, per riuscire a sopravvivere, diciamo, in qualche modo all'arrivo dei candidati del Tea Party. Quindi da un lato questo elemento sfida l'establishment repubblicano e punta a radicalizzarlo, riuscendoci in molte realtà, quindi ripresentando un volto dei repubblicani aggressivo come quello che c'è stato nell'ultimo decennio. L'altro elemento che preoccupa i repubblicani, lo ha detto Karl Rove, che era stato uno degli strateghi politici di Bush, un analista politico, insomma, sulla piazza dai tempi di Ronald Reagan, che il rischio è appunto che questo radicalismo, questo estremismo incarnato e anche l'inesperienza incarnata ad esempio dalla figura di Sarah Palin, che si ricorda durante la campagna presidenziale di 2 anni fa sbagliò perfino la geografia, non sapeva dove erano alcuni stati, non conosceva il Caucaso, alcune realtà del Medio Oriente, quindi diciamo dilettanti allo sbaraglio dal punto di vista dell'analisi dei politologi americani, rischi di favorire quello che attualmente non sarebbe possibile, cioè un mantenimento dei consensi al Partito Democratico e all'amministrazione Obama, che invece è in forte calo di consensi perché una parte del paese non ha capito le riforme fatte da Obama, una parte del paese nel cuore profondo dell'America continua a vivere di paure nei confronti della presenza di questo nero alla Casa Bianca e ultimo elemento, la crisi economica, forse il primo dal punto di vista dell'importanza dei cittadini americani. La crisi economica è molto forte, negli Stati Uniti si continuano a perdere centinaia di migliaia di posti di lavoro e ovviamente chi si presenta oggi come detentore del potere è considerato o può essere considerato irresponsabile. Questo è un po' il quadro. Va bene, senti, io ti ringrazio, mi accorgo che sono ormai le 13, quindi non so se tu hai qualcos'altro da aggiungere oppure se siamo effettivamente in chiusura. Un caro saluto. Un caro saluto anche a lei. Ciao, alla prossima.